finisce la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. E 54 minuti primi le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana nazionale, nonché il DAB da Roma, Perugia, Terni. E nonché la trasmissione in streaming in ogni dove attraverso il web. Basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info o su uno dei tanti altri ripetitori, repeaters, che è facilissimo trovare online. www.ondarossa.info, dicevamo, il sito della radio dove campeggia in alto al centro la campagna di radio abbonamento, che è proprio partita all'inizio di questo mese. Radio Onda Rossa resiste al giubileo. Diamo anche una sistematina all'impaginazione, all'ingrandimento, allo zoom sul sito della radio, perché evidentemente le trasmissioni che ci hanno preceduto, e salutiamo Elettrodo, sono fatti di ciecati, peggio ciecate, peggio di noi. Per cui era a caratteri cubitali. E ci andiamo sul sito del radio abbonamento, sulla pagina di produzioni dal basso, che è quella con cui si arriva linkando appunto la home page di Radio Onda Rossa, dalla home page di Radio Onda Rossa. Il radio abbonamento Onda Rossa Giubileo 2025, la campagna di abbonamento di Onda Rossa per il 2025 nell'anno giubileo della speranza, tra Porte Sante, Pellegrini, Santoni. Anche quest'anno vi chiediamo di partecipare alla campagna di autofinanziamento di Onda Rossa, che da 48 anni trasmette grazie alla generosità di ascoltatori e ascoltatrici, ma più che generosità io direi l'apporto continuo e militante. Alle iniziative di autofinanziamento e alla tenacia di chi trasmette tutti i giorni. Ancora oggi Radio Onda Rossa non passa nessuna forma di pubblicità, e ancora oggi chi apre i microfoni riceve compensi né rimborsi, e ci mancherebbe altro. Aiutaci a far vivere la radio che si sente, insomma, si spiega un po' come funziona la radio. Anche chi, diciamo, non l'ascolta da tanto tempo, i più giovani, le persone che sono ascoltatrici e ascoltatori da meno tempo, comunque a 67 giorni rimanenti e a una decina abbondante di giorni dall'inizio, le cose procedono abbastanza bene. Vi chiediamo quindi di raggiungere i 20.000 euro, che non è poi una somma così cospicua. Quindi radio abbonamento Onda Rossa Giubileo 2025, andate sul sito e cliccateci dentro e fate il vostro. inoltre vi ricordiamo quelli che sono i contatti della radio, cioè ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione della radio. 25 o'clock 25 scritto al numero per chi vorrà molestare il sottoscritto. 06 4917 50, recapito di Radio Onda Rossa dal 1977 a oggi. E se volete venire a trovarci a Roma, via dei Volsci 56, al primo piano, e ci verrete a trovare sicuramente fra poco più di un mese, quando 23, 24 e 25 di maggio ci sarà il compleanno di Radio Onda Rossa. A tal proposito, noi iniziamo così. Per niente, tutto per root, rende per rente, rispetto, massa ricetta, re perso mi fanno dispetto, veronga, vi stengo monter, sono storm, mi sento bonkers, apparente tren, top ten, scibiamo sta scena bombers. Vive una vita pericolosa, ma vive notto con una sposa, la gira forza dei rossi, sì, vaga veloce, mi incontra va short, accorta per troppe cortelle, tunde ne corte, ma sino perdente, pure si tieni pendente. La droga si dipendente, a cucchio parole nessuno te sento. Tenga forza la mente, sai a forza lo rap. Prima ne forza ma tu ne la gang. Tu si corrotto si tradisce a femme. Prefende disco rappers. Cocco cose da persa. Preferisce tendenza. Se tu malisci fai poca coerenza. Poca coerenza. È la bomba che fa forza in terra. Una bomba che va a mostra. A gente che zomba burdella. Fui tenna, chiuso sono re bombers. È una bomba che fa forza in terra. Una bomba che va a mostra. A gente che zomba burdella. Fui tenna, chiuso sono re bombers. Bombers. Bombers. Chi se suonare bombers? Bombers. Ha, ha, ha. Chi se suonare? Sono sempre pronto per scontro. Sì, sì, un secondo non conta. A secondo sto suono rimbomba. Quando ne vuoi tanto te ne ronca. To donga, sì. To leva. Tacca a te, te venga. Vieno con noi si può vincere. Sì. Te rammette quello che è perso. Bombers. L'ora marisce una baia. Cagna per forza chi dire non sai. Con un secondo regime. Non te regime, te sei da regina. Ma sai che ne vuoi. Non te ne ronca, to leva. Se da sto pronto, perché malena. Quando sto solo in malena, mi sento in alena. Mi penso dopo in salevio pensiero. Hey, yo, hip to the hop. Pip to pop, pigli to blocca. Bitch, casse rullante co. Cazzo, casse fermammo stop. Hey, yo, chi stai lì pop. Beat te nocco, mit da sotto. Welcome to the jungle. Tu sei da o, mazzato che piglie che do. È una bomba che fa forza in terra. Una bomba che va a mostra. A gente che zomba burdella. Fui tenna, chi sto sono re bombers. È una bomba che fa forza in terra. Una bomba che va a mostra. A gente che zomba burdella. Fui tenna, chi sto sono re bombers. Bombers. Bombers. Chi sto sono re bombers. Bombers. Chi sto sono re. Thank you. soldato per il governo per assassino. La gente in guerra e finge che non lo sia. Parte già si schiera per chi che sia. Evoca gran fiera dell'empatia. Cervello in cachessia, zombie in catalessia. Questa assenza permanente, incapacità di discernere, non è demenza, è un'epidemia. Zero moralismi tra le mie grida, nelle mie barre è presente la sfida. Rabbia pensante di chi sente pesanti, ombre di sbarre e di gabbie. Sole si leva d'oriente nel freddo deprimante. Vivere con la scacchina d'alba in faccia dei latte. Ombre rosse, nei vostri incubi più neri. Riunione di cadaveri da tutti i cimiteri. Assisterete inerti all'apocalisse zombie. Altro che flash mob, flash hitters, Abercrombie. Ombre rosse, nei vostri incubi più neri. Riunione di cadaveri da tutti i cimiteri. Assisterete inerti all'apocalisse zombie. Altro che flash mob, flash hitters, Abercrombie. Vi porterei in a casa, altro che Gandalf, sotto le bombe. Sull'andata delle catacombe, paura nella città dei morti venti. Noi più firme le catacombe. Al di là del bene e del male, c'è una tanti degli feretri di risommessa nel mare. Sareste pronti ad affogare tutti i cadaveri che dal fondo tornano ad affiorare. Prendetevela a male, si potere coscia a mano, getto sale. Sulle ferite aperte, la società del male. Che ammazza le botte, chiude i porti, sbarra le porte. Fitness, green, privilegio come sorte. Essere poveri oggi è la condizione più prossima alla morte. In questa bailam, acclamato sovrano, e chi guadagna dal traffico umano. Immaginate solo in green senza trama, gangsta ma la carne che si sentono dei soprano. Esaltano bamba, armi e puttane, mi si rivoltano le entrame. C'è chi fa soldi esaltando il commercio di carne umana. Non è rap, è una reclama. Portigli per gli acquisti. Carnevale in costume di un uccello senza piume. Stronzi, struzzi, strozzini, con la testa nel bitume nella sabbia. Istattato al crossfit, mentre io powerlifto la mia rabbia. Urla come se un tank dell'inverno, altro che guerra. Io vorrei che l'unica stagione del capitalismo fosse il vostro inferno. All'apocalisse zombie. Altro che flash mob, flash hitters, Abercrombie. Ombre rosse, nei vostri incubi più neri. Riunione di cadaveri da tutti i cimiteri. Assisterete inerti all'apocalisse zombie. Altro che flash mob, flash hitters, Abercrombie. Minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa, 25 o'clock ai controlli, e abbiamo iniziato con del rap da battaglia. E quindi da Salerno, le Zetas. E questa è la loro Bombers nella versione official video. Get in trouble, stracadicio. Hip hop. Rockesh tipo palficio from the underground. Altro che mainstream, broken heart, broken ash, noise, wolf di Wall Street. Broken hope, benediction to silence for the whisperers, oscuri back from the tomb. Di ragazze da Salerno. Rise face, rise face. Giorno dopo giorno vedo il cielo più scuro, il sole più nero, e manca l'aria davvero. Se penso al futuro, forse è tutto ok, sono solo. E questo invece l'avete ascoltato e visto. Per chi c'era? Passa veloce come un colpo di pistola. In quel del 5 aprile alla ex SNIA. Non sono Brian Molko, ma questa è un'altra storia. Col cuore. Si tratta dell'ultimo lavoro, per quanto il completo, insomma. I can breathe. La vita non è un film, che cosa vuoi che mi succeda? La se fai la se passe. Non fatto di tracce spot, ma appunto un album vero e proprio, una compilazione. Vedo il cielo più scuro, il sole più nero, manca l'aria davvero. Se penso al futuro, non forse tutto. Diamanti sporchi di sangue, Pavel. Sì, sì, sì. Giorno dopo giorno vedo il cielo più scuro, il sole più nero, manca l'aria davvero. Se penso al futuro, forse tutto ok. Ed è Ombre Rosse, cioè quando gli zombie emergono dalle tombe e vanno a fottere il capitalismo. Ho visto troppa gente fottere gli amici alle spore. Non sarete mai felici. Riverso, versi versus questo mondo perverso. Ma non E seguendo questa linea di idee, ce ne andiamo invece nella più della di una delle più dissacranti e politicamente scorrette formazioni britanniche dell'ultimo periodo. Se penso al futuro, forse è tutto ok. Sono solo troppo cupo, il mio credo è se sei. Giorno dopo giorno vedo il cielo più scuro, il sole più nero e manca l'aria da... You're Brave al futuro. È la quarta traccia tratta cupo, il mio credo è se sei. Da questo Divide and Exit. Stiamo parlando di Sleaford Mods. Lavoro del 2024. Che non manchiamo di trasmettervi con assidua frequenza. News around the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe, no one cares from the globe. Sat around the bloke's ass. He liked me cause I made some informed comment about the early history of his fucking country. Big mirror, lumps of drugs, his own private lift, shit pieces of art, matter of fact statements about how he's picking his kids up in 2 hours, twat, as if. You're brave. You're brave. You're brave. Yeah, ain't we all? Chain smoke your face. I ain't listening to you, mate. I ain't listening to fuck all. I just wanked in your toilet. Polish that, you connoisseur. I'm a connoisseur. I've conned you, sir. Nick your biscuits. Laugh with your mates. Wanked in the toilet, you fucking tit rifle. Yawn. Turn this wannabe inner city ank shit off. You're in the presence of toiletry. From under the rim drips the bleach thing. Ooh. Horrible strands of brown waste. Bland legs, not long. You're brave. You're brave. You're brave. I'm getting weird looks from his girlfriend. What did she expect? The parlour's alright, it's a nice city. But I'm tired, I'm wrecked, bored. I've lived 10,000 lives more than these kids in Wonderland. When it turns black, then the realisation will change that party face. You gotta change the friends who love you long time. Love, chicken mix, large, no salad open, times two. I want a place like this, how do I get it? It's beautiful, it's fucking ridiculous. How'd you spell that? Chumbawamba weren't political. Cool. They were just crap. You're brave. You're brave. You're brave. Oh, ain't we brave? Oh, ain't we brave? Oh, ain't we all just pissing in the flames? Venti e 14 minuti primi. Abbiamo ascoltato Jason Williamson e Andrew Fearn, anche se Andrew Fearn fa tutto quello che è prima. E poi nella esecuzione materiale, insomma, più che altro si presenta e ci mette la faccia, almeno in quella che sono le esibizioni video, diciamo, e quelle che girano sulle piattaforme. The War torn liner on the toilet floor and the way the decorators make blends it all in. We are caged trying to pick preferences up. Comunque bassi minimali prodotte da appunto Iron Firm di grande gusto, di grande pregio. Molto rozze e ruvide, quasi quanto la voce di Jason Williamson. Che più che un rap vero e proprio, un rappare vero e proprio, è una sorta di cantilena e di parlato. Adjust my tie, I hate this lie. The struggling words, swivel serving. I can't see it. Ranges from pick your nose and do something else to. I just can't fucking. Raccontate con un linguaggio assolutamente politicamente scorretto, storie di strada. Belong to me, mate. E di proletariato urbano britannico. Bus, taxi, walk it, roundabouts, cogs, block, Audi, T4, some twat on a fixed. Everybody looks like they got it. The struggling words, swivel servant. Ci siamo ascoltati You're Brave e rimaniamo nelle isole britanniche. I hate this lie, the struggling words, swivel servant. In quelle colte dalla nuova povertà, post o pre, insomma, non difficile da dire. I hate this lie, I just. Brexit, ma sicuramente. The struggling words. Condizionate da quella che è la politica post-tacceriana, insomma, che li ha condannato, quella che era un tempo una forma di welfare piuttosto singolare, ma comunque presente nelle isole britanniche. E via via questa forma di welfare si è andata sempre più affievolendo a partire appunto dagli anni Ottanta. In 40-50 anni ne è rimasto ben poco. The corgi, the palace gets it right. The corgi, it's always warm at night. The corgi. E di più, la Gran Bretagna è uno dei paesi che adesso sta intraprendendo con maggiore convinzione l'aumento delle spese militari, e quindi ci immaginiamo che queste vadano a pesare poi ulteriormente su quella che è la spesa sociale. Educazione, sanità, cultura. Assistenza alla disoccupazione, questo è quello che viene tagliato attraverso i giochetti dello spostamento sulle spese belliche oppure quelli per cercare di mantenere l'egemonia sul mondo. Il giochetto è sempre stato quello di mettere gli uni contro gli altri, nativi e immigrati di prima, seconda, terza, quarta generazione. Ed è un giochetto che ha sempre funzionato. Quasi sempre, almeno finora. Per cui la colpa non è di chi accumula grandi capitali, come d'altronde è evidente sotto gli occhi di tutti, basta guardare il numero e la quantità di soldi accumulati dai ormai quasi trilionari, i grandi miliardari. Pochi e sempre più ricchi. The corgi, the palace gets it right. The corgi, it's all. E sempre di quella Gran Bretagna. The driveway and the range. Ha suonato per noi. Ora sì. E raccontava sempre quelle storie. Lei, dentro la vicenda dell'educational, come si dice in gergo britannico, perché era un è un insegnante. From Chip supporting Sir Lancelot, fags and meat, Lincolnshire, che attraverso l'hip hop cercava di comunicare quelle che erano le sue esperienze, anche comunicare e far comunicare, far usare l'hip hop come linguaggio alle giovani generazioni che, con cui veniva a contatto. Da un lavoro del 2011-12, non 2013 forse. E Bags o Collabus, una villeggia di collaborazioni, appunto, tante collaborazioni in giro per il mondo. E proprio una collaborazione con un rappers degli States, Poetic Death, Operation Blackout, quindi Orasing e Poetic Death. Fuck off a Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai. The fairy gods out of the pain. From rags to Richards, rags to Richards, rags to Richards, rags to Richards, rags to Richards, rags to Richards. I would just like to reiterate how extremely, extremely sorry I am for stealing all of your brains and trying to take over the world. Mistakes have been made. Horsey, I don't know if you just saw what I saw, but I was watching the television, man. I think tonight's the night we need to make our move. I got the package on me. I'm heading downtown right now on the metro station. Hit me up when you get to your location and let's make this happen. Organized threat, broken dialect, from the US to the UK. No more excuses. Yeah. So here's the mission, I'm running through the metro. Got a package in the backpack, and freedom's on the mental. My generation upgrades, I'll write it out in pencil and pass the message to my homie. Watch him animate the visuals, the movement is real. See helicopters on the skyline, support anonymous, we're organizing in the nighttime. At 10:45, I'll shoot a message out to Horsey. Across the continent, beyond the waters of the seven seas. We're international, devoured you like cannibals. Our thoughts are intellectual, the dialect is broken. Subliminal imagery, telepathic and spoken. Build a common understanding, we salute in the open. A middle finger to your politics, let's put it on the table. There's a genocide of Palestine, but Israel's the ally, and everybody wants peace. We're tired of the bloodshed, like a generation of pain being censored through the media. The internet is rising as the baby boomers die off. Somebody hacked the phone lines, we scrambled all locations. Y'all, shoot me your message once you reach your destination. If we make it out alive, remember not to celebrate. I'm aiming for my destination, mental state is regulated, no feather. I'm heavy in the game and making changes. No hesitation when it comes to taming hatred. I devastate it, out come the gloves and the rebel ways. Gotta get away from the state that we're living in. Satan's television and the blatant conditioning. Straight brain enslavement, we're tamed and we're giving in. Don't wanna get militant, but petitioning isn't winning it. They wanna keep us hush, keep us dumb, keep us silenced. Keep us under the thumb, under watchful eyes. And supplies to become wise are hard to come by. They're fighting us by taking rights and fighting them with rhyming. Organized threat, we're on a heightening for reasons of relevance. Poetic death and broken dialect are fighting for freedom. With benevolence, freedom, my mind's freedom. With intelligence, freedom to teach and to reap in the benefits, freedom of speech, freedom of your sentience, freedom in believing we live better and freedom for all beings, freedom for everything. Epiche, voglio sovvertire etiche mediche. Che la mia Italia non segue scienze ma prediche. I morti sul lavoro ma zero manette. Passano le mazzette, poi nessuno è colpevole. Cerchi i diritti, si è messa alle strette. Piangono gli embrioni e non le vedove. Obiettore di coscienza, faccio un lavaggio. Non importa che pensa, dei diritti un oltraggio. L'embrione non cresce nella pancia di un maschio. Avete coraggio a costringermi ad un parto. Medicina medievale tiene donne in ostaggio. Ti lasci morire male quando viene un infarto. Allora signorini, pippa. papà non conviene affatto. Non nego, mi dispiace, sua mamma non l'abbia fatto. Allego al cazziatone una notifica di scatto. Lancio la televisione a fanculo giù dal terrazzo. Vita, sediamo a sederci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? Evita se di ammazzarci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema marcio, cosa mi dite? Con metriche gelide voglio sovvertire etiche mediche. In questa guerra non siamo disposti a perdere. Non ti riguarda, allora no, non ti intromettere. O ti veniamo a prendere, apri tutte le tue pecore. Ti do una lezione, gli embrioni non sono persone. Forse è così più chiaro il messaggio in sovrappressione. Usando lo stesso linguaggio della religione, lo diceva Tommaso d'Aquino, l'animazione ritardata. Proprio come te, coglione, non cerchi l'informazione e dici la tua opinione. Se ti mettessi nei nostri panni un paio d'ore, capiresti quanto è dura affrontare la situazione. Sento parlare questi dalle menti chiuse. Voglio esplorare contesti adesso sconosciuti. E più ne parlano, meno sanno. Effetto danni in Kruger. Non ne sai, non ne parla, fai solo danni, stupid. Evita sediamo a esserci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è se fosse maschio, cosa mi dite? Evita di ammazzarci mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema marcio, cosa mi dite? 23:26 minuti primi, rimettiamo da capo Elli Cottino. Che epiche, voglio sovvertire etiche mediche. Che la mia Italia non segue scienze ma prediche. E ancora hip hop, questa volta da Torino. Le mazzette, poi nessuno è colpevole. Cerchi i diritti, si è messa alle strette. Piangono gli embrioni e non le vedove. Obiettore di coscienza, faccio un lavaggio. Obiettore di coscienza, Elli Cottino, altra non cresce nella pancia di un maschio. Guerriera del rap. Medicina medievale tiene donne in ostaggio. Può vantare diverse collaborazioni anche con Assalti Frontali. Non nego, mi dispiace, sua mamma non l'abbia fatto. Allego al cazziatone una notifica di scatto. Lancio la televisione a fanculo giù dal terrazzo. Vita, sediamo a esserci mentre siamo vive. Invece di pensare a... E comunque nella scena di Torino salvare vite. Il problema è se fosse maschio. Una realtà splendente. Mentre siamo vive. Invece di pensare a cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale. 23:27 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. E poi ancora questa guerra non siamo disposti a... In streaming in ogni dove dal web, quindi www.ondarossa.info. E ancora una lezione, gli embrioni non sono persone. Forse è così più che... In dub da Roma a Perugia, Terni. Lo stesso linguaggio della religione, lo diceva Tommaso d'Aquino, l'animazione ritardata. Proprio come te, coglione, non cerchi l'informazione e dici la tua opinione. Se ti mettessi nei nostri panni un paio d'ore, capiresti quanto è dura affrontare la situazione. Sento... Noi ci spostiamo verso altre componenti. E più ne parlano, meno sanno. Effetto danni in Kruger. Non ne fai, non ne parla, fai solo danni, stupid. Evita sediamo a esserci mentre siamo vi... Delle playlist di 25 o'clock a cui siete abituati, per cui non vi aspettate nulla di prevedibile di ammazzarci mentre siamo vive o di lineare. Cellule indefinite, sarebbe un po' più funzionale a salvare vite. Il problema è il sistema marcio, cosa mi dite? We'll be right back. dal cilindro appunto siamo andati a tirare fuori 69th Street Bridge. Tratto da Fuga da New York, colonna sonora di John Carpenter, tratto a sua volta da quella che è un'antologia, il secondo volume dell'antologia Movie Themes 1976 1988. Un lavoro appunto uscito non molto tempo fa, questo è il secondo volume, il primo volume non ne siamo a conoscenza o in possesso comunque. Come sapete il regista statunitense è solito comporre da sé le soundtrack dei propri film. Peraltro in modo assolutamente autoprodotto, cioè registrandole direttamente a casa propria, o poco ci manca, andando a manipolare appunto le varie apparecchiature che possiede. Come direbbe qualcuno, un artigiano proprio del cinema. O come a qualcun altro direbbe, un filmmaker diverso appunto dal regista. E normalmente questo tipo di accezione fa rima anche con l'indipendenza o comunque l'autoproduzione delle proprie produzioni cinematografiche appunto. E John Carpenter e la sua seconda antologia dei film, dei movies fra il 1976 e il 1988 ci serve per introdurre un altro, altri autori. Che sicuramente traggono ispirazione dal modello di Carpenter. Conoscenza molto, diciamo, di casa qui a 25 o'clock. Da Abyssus, l'EP uscito qualche mese fa. Meno di un anno fa, sicuramente. Vessilli Volsci. E stiamo parlando di Velester, Radio Onda Rossa, 25 o'clock, dai e! Che però stranamente non va in onda. Ed eccolo. Ed eccolo quindi Vessilli, Volsci, Velester da capo. Thank you. 23:42 minuti, trilla lo 0649 1750 della radio. Vessilli Volsci, a Via dei Volsci. E invece, sempre, ancora, tratto dalla immensa compilazione Tip to Italy, 182 mi pare tracce di band stoner psycho metal psycho stoner space e chi più ne ha più ne metta, come direbbe qualcuno, di suoni magnati o di chitarre che fanno wow wow. Peraltro continuano a uscire compilazioni di Vedian, così compendi di quella che è il genere. Trattando in Italia un po' di tutti i paesi del mondo, ci vorrebbe una vita per andare ad ascoltare tutto. Sandstrikes ritorna, una voce che abbiamo sentito appena all'inizio della trasmissione di questa sera. Loro vengono da Bologna e, guarda caso, alla voce di Sandstrikes, di cui nel lavoro, nel disco, è composto da 3 tracce che si chiamano 1 e 3. Stiamo ascoltando la 3ª traccia. Dicevamo, alla voce c'è quella di Pavel, che non se sta fermo e zitto un attimo. Da capo, Sandstrikes 3, da Vedian. We'll be right back.

Dai, poi ve lo faccio risentire, T.I. Seagal. Però prima vi volevo raccontare un po' dei Sand Strikes, non tanto la band, che abbiamo avuto 12 minuti e 05 di tempo per a poter apprezzare. Ma i Sand Strike, anche detti vermi dei Rimini. Oh, così è scritto, eh. Che sono sti vermoni, veramente delle creature della... della fantascienza, comunque provenienti da un mondo extraterreno e che ricordano appunto i vermoni. Dei celebri film statunitensi della serie, e che sono questi vermi non così giganteschi che vivono sotto la sabbia, che letteralmente escono fuori dalla sabbia e se mangiano i pesci. Andatevi a vedere i video che sono veramente impressionanti. Probabilmente dei Rimini, perché stanno a Rimini, quindi abbiamo una creatura così inquietante anche nelle nostre acque mediterranee. Va bene, noi ci sentiamo adesso di Seagal da capo, che abbiamo brutalmente interrotto. Il genietto della California, più che genietto, sì, genietto nel senso pure... spiritello dei boschi in questo senso. Reflection, quindi T.I. Seagal da capo a 25 o'clock, dai! 10 minuti dopo la mezzanotte e abbiamo trasmesso io The Stupid Wars, e credo che non si possa iniziare la giornata nuova dopo la mezzanotte con un'altrettanto saggia e alterata constatazione. ELT, come spesso si fanno chiamare in acronimo abbreviato, io la tengo da Hoboken, New Jersey. Ultimo loro lavoro lungo del 2023, che si intitola appunto This Stupid World. Che con piacere abbiamo riascoltato dopo qualche mese che l'avevamo dimenticato da qualche parte. 0649175 recapito di Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza da Roma e poi in DAB da Roma, Perugia, Terni. E in streaming da ogni dove, basta andare sul sito www.ondarossa.info, ascolta la diretta. Mentre ci prepariamo al 23, 24 e 25 maggio, ma vi faremo sapere meglio man mano che ci avvicineremo alle date, come sarà poi il programma della tre giorni, abbastanza ricco, direi piuttosto ricco, tanta roba. Ritorniamo su quello che avevamo ascoltato sempre, dicevamo, qualche mese fa, e all'incirca un anno fa ci lasciava Steve Albini. Producemmo all'epoca una puntata divisa fra le due personalità della musica, tanto distanti ma coincidenti poi nel giorno della dipartita, anche con età molto differenti, piuttosto differenti. Steve Albini abbastanza giovane ancora, appena sessantenne. Giovanna Marini invece, diciamo, al termine della parabola della vita, come ci augureremo tutti di arrivare. Questo non vuol dire che come si dice, la mancanza non sia altrettanto forte. E quindi lavoro uscito degli Shellac proprio subito dopo la morte di Steve. Soul Train si chiamava, ci andiamo ad ascoltare quella che dovrebbe essere l'ottava traccia, ma che comunque si chiama How I Wrote Elastic Man. Shellac, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. again. Dice che è la giusta erede di PJ Harvey, classe 1980, Anna Calvi. Da Twickenham, Gran Bretagna. Questa è la produzione della colonna sonora di Peaky Blinders stagioni 5 e 6, da cui abbiamo ascoltato la traccia principale, You Are Not God, Tu Non Sei Dio. suoni che ti bucano i timpani, ti entrano in testa, rimbombano dentro. Pochi semplici strumenti effettati. Una chitarra distorta e amplificata al giusto. E noi da questo blues profondo e alterato e disturbato ce ne andiamo invece. Ce ne torniamo qui dalle nostre parti, qua dietro. Ci ha portato il suo dischetto così di due ancora proposte appena registrate. Lui ne fa un po' alla volta, poi quando arriva al numero giusto ci colleziona un album. Un lavoro, un progetto compiuto. Dicevamo, ce l'ha portato con le sue mani, ci siamo fatto una chiacchierata, questo è Roberto Falconieri. Anche lui una vita piuttosto articolata e intensa, un rockers, un bluesman, appunto qui di Roma, ma che non ha manchiato di fare una lunghissima esperienza proprio sulla strada negli States per locali. Per chi è interessato basta andare su un motore di ricerca qualsiasi, scrivere 25 o'clock, Radio Onda Rossa, come vi pare, Roberto Falconieri, esce fuori quella che è la sua intervista e in occasione della promozione del suo ultimo lavoro completo. Ormai qualche anno fa. Pylon Nothing, questa è una delle sue due ultime produzioni, ce l'ascoltiamo adesso per intero, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Yes or no, I want intercourse, you're mine. Lucky enough, being left outside. I don't want that, what that for? And because he's mine. Respect, gonna die alone anyhow. I won't let you read my hand. I don't wanna pet your dog. I don't owe you, you don't owe me. And I've been trying to be kind. I won't pay attention to you, just to build a pile of nothing. I don't wanna see your words. I don't know just who you are. I won't listen to your call. You are costruita apposta. Mi dondolo nel vuoto, mi butto giù di testa. La mola antonelliana l'ho costruita apposta. Ma prima di buttarmi aspetto una risposta. Vado giù di peso, non ce la faccio più. Ormai mi sono arreso e guardo la TV. Programmi demenziali, tribune elettorali, non possono bastarmi 96 canali. La monatoria l'ho costruita apposta. E mi dono l'ombra e vuoto, mi butto giù di testa. La monatoria l'ho costruita apposta. Ma prima di buttarmi aspetto una risposta. Baciami ora bambina, sono principessa. 36 minuti dopo la mezzanotte e poi la rimettiamo, dai. Solo per dirvi che ci siamo ascoltati in rapida sequenza. Chaos Rock, basta basta. Da Milano negli anni 70, addirittura 79. Poi anni 90 invece, da Torino, Fratelli di Soledad, Silvia, però con la stessa rima, lo stesso ritornello di Chaos Rock e basta basta. E poi da Venezia, Pino Sabba, Principe, Regina. E chiudiamo con Chemical Brother. Fountains, da capo, prima che parte. Zero 6 4 9 1 7 5 0, radio abbonamento di Radio Onda Rossa già dai primi d'aprile. Onda Rossa più su.info, vai sul sito, clicca su radio abbonamento e datte da fa. Vabbè, 41 minuti dopo la mezzanotte ce ne possiamo anche andare. Mercoledì prossimo è il 23 d'aprile, ci dovremmo essere, ci siamo. Bisogna vedere in che forma e in che modo, perché insomma siamo a ridosso del 25 aprile, ci piacerebbe mettere sulla storia riguardante il la festa, la ricorrenza, preferiamo, della liberazione dal nazifascismo. Liberazione ad opera della resistenza partigiana. In Italia e in particolare si festeggia il 25, ma insomma ogni paese in tutta Europa ha una sua festa della liberazione. E anche in Asia, perché poi guerra mondiale si trattò, insomma. Fu uno di quei nodi, di quei gangli storici che poi produsse una realtà dinamica e allo stesso tempo stabile per un numero abbastanza alto di anni, fino diciamo ai giorni d'oggi, quando è in corso un'altra grossa. Riformulazione degli assetti di potere. E anche oggi, senza una resistenza partigiana, cioè senza la partecipazione di tutte e tutte noi, delle persone, dei poracci, delle poracce, di tutte e tutti quanti che sono i senza potere e le senza potere soprattutto. Senza questa partecipazione, ovviamente, chi ha il potere se lo gioca come vuole e come può. Bisogna essere protagonista e protagonisti ancora, di nuovo, ancora. Va bene. Il palinsesto si chiude con in diretta con le nostre note. Si prosegue con in compagnia della compagna automatica, che non è più suonata, ma che si chiama Y Moose. Bah. Vabbè, però comunque fa il suo sporco lavoro pure lei. Fino alla ripresa domattina con le trasmissioni in diretta, la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della città e del resto del mondo dalle 10 alle 12.30, alle 12.40 Impatto, la replica del giovedì, alle 13.45 circa, fino a 14.45 circa, Tutto Scena Cinema, la trasmissione sulla disabilità punti di vista, dalle 15 alle 16, relativamente nuova trasmissione della radio da qualche settimana a questa parte, dalle 17 alle 18 alle schiene del sole, dalle 20 alle 21.30 tabula rasa, la trasmissione sui libri di Onda Rossa. E poi il nostro fagiolino 21.45 e 22.45 con i Noctibus Panis, a seguire i Cuginetti d'Apostasia che chiudono la serata dalle 23 e vai avanti, perché sicuramente iniziano più tardi. Peggio del sottoscritto. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutte coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la radinanza, la clandestinità, in Italia, arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti e tutti i decreti amministrativi e le varie forme di coscrizione che esistono e che ci costringono tutte e tutti. In base appunto a qualche decreto di qualche pretore, questurino, eccetera, eccetera, eccetera. Dai, ci risentiamo mercoledì prossimo. Bella a tutte e a tutte. Noi ce ne andiamo sotto la comunista, luna comunista, però fra un pochetto, perché non abbiamo ancora preparato il disco. dreams.